riguarda tutte e due, ma riguarda tra Gigi e Antonello, ma riguarda qua 9.30, articoli positivi, eh. Troppo 9.30, dai, troppo. Io sono a 4 fatti adesso, eh. Ho abbastanza, ti dico io non posso abbastanza. Ma tu mi arrivi lì, arrivi 9 qualcosa, 9.25, articoli positivi. Antonello sta dando quella cosa là, 9.30, qua. Staccato, guarda, provaglielo, staccato, dottore. Adesso, adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, dai. Staccato, sì, 4 watt, giusto, dottore? Sì, sì, 4 watt di pilotaggio, giusto, giusto. Positivo, ma lì il segnale te lo dà a te, quello lì, dottore? Ma sono sempre il 79, come baracchino, mi sei sempre uno anche tu. Io come ti arrivo Gigi lì a casa tua, com'è il segnale lì? Quanto sei quasi 9.5, lo sai. Quasi 9.5, perché sei di portate bianca 9 e picchi 9.5. Ma può segnare il tuo, eh? Dopo che abbiamo fatto quel lavoro con Antonello, che abbiamo messo tutti quanti i radiali nuovi e abbiamo fatto anche quella modifica all'antenna, anche una cosa allucinante, che guarda, non ho mai visto una toia con un'antenna come quella lì, come quella che c'è Antonello, di prenderci e sceglierci lo stilo, è una cosa allucinante, lo stilo centrale, a sceglierci giù, cazzo, guarda, mai ho visto antenne così, oggi. È positivo, comunque poche parole c'è lo stesso segnale tuo, Antonio, di quando sei attaccato. Hai capito? Eppure è strano questa cosa. Ma tu c'è più vicino, cazzo, lui c'ha quando proprio si in pieno penne, c'è la di fronte, come hai capito, lui è come se tu ti metti all'ugulento, c'è son sotto, seno, eccetera, eccetera. Io sono molto più distante, hai capito? È logico che tu senti meglio di me. Io sono molto più lato, ma sono distante, proprio nella figura di. È positivo, dai. Ti mandavati un po' cavallo, pure c'è voce addosso, non potevo sentire. Cavalli, io sono avvali, questi baracchini, comunque sia, secondo me esce bene lo stesso. Scusate, la radio buona, è ultima. Ah, la radio già ho su che è perfetto, non ho problemi. Avanti, Giuseppe. È perfetto, Antonio, lo sai che lavoro ho fatto bene, c'è bene, e il rendimento si vede lo stesso, il discorso è quello lì, una volta che la cosa la fai bene, tu non avrai mai nessun problema a toccare la prossima volta, capito? Ogni tanto, secondo me, è che mi ha fatto c'è quel rumorino. Ogni tanto ce l'hai quell'innesco, Antone, Giuseppe. Mi pare che avevi l'altro giorno questo fatto. Secondo come modulavi, com'era Antone? Si avvicinava al microfono, adesso non ricordo com'era la situazione. Sì, vabbè. Io come ho detto non sento questo fischietto, comunque sia, non ho. Lo sento bene. Strano. Vabbè, già il microfono per fischiato, poi a me non so se lo facciamo con rispetto. E cappa, sì, vabbè che con la cosa qua dell'eco è a zero, Antonello, non l'ho neanche toccato, l'ho lasciato a zero come l'hai lasciato tu me. Lasciato così già va bene, comunque io fischio che non l'ho sentito. Come se magari qualche volta devo fare perché c'hai tutto attaccato vicino tu, c'hai il microfono che è attaccato al baracchino, dove ti tiene distante, capito? Non c'hai il comodino largo, quindi è logico. Guarda Valere, adesso io ce l'ho sopra la gamba, sto parlando, c'ho il microfono sopra la gamba, vedi come sta uscendo, cambio, 1, 2, 3, 4. Io ti sento bene, Giuseppe, Luigi tu lo senti adesso il fischio, io fischio come sento. Oh, negativo, l'ho sentito poco fa, è un passaggio, non fisico, come un innesco ci aveva sotto. Ma non sentito quel passaggio di prima, hai capito? Però sicuramente o c'era qualcuno arrivato un po' forte sotto in propagazione e ha dato questo disturbo così. così, capito? Che cappa, guarda bene. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. No, non c'è nessun corso, nessun vettore, se metto io prima o era qualcuno in propagazione o niente, è come che c'è una piccola alternata sotto. E K, via, va bene. Antonio, stamattina gli ho fatto quella questione a Gio Maria, maestro dice quante ore, no, io non so niente, ti metti d'accordo con lui, non so niente, telefono e ti metti d'accordo con lui. Non mi deve dare nulla a me, no, diglielo che non mi deve dare niente. Signor di quelle di quei dissipatori gli altri do, non è problema, a me non me ne faccio niente di quelli, capito? Quindi non c'è problema. Se c'è qualcosa che posso dare che non ne faccio niente, lo sai, io lo sempre, lo voglio subito, non ne fate nulla. Per me ho, capito, è un favore per chi l'ha dato, uno senta con l'altro, capito? Non voglio di subito, non ne fate nulla. Sì, vabbè, al limite se lo senti, mi dici guarda, se proprio mi vuole dare qualcosa, se c'è un microfono, almeno fai contento una persona, e dunque c'è stato il nome mio. E poi mi ha detto, stamattina mi ha detto, dice, uno di questi giorni che mi deve chiamare perché dobbiamo fare un piccolo lavoro giù in campagna sua, lo devo aiutare, capito? Allora. Così almeno ti distrai tu, gli fai compagnia a lui, capito? Almeno scende, ti fa compagnia, magari mangiati qualcosa di lì, se ci sono sardini, mangiate sardini per divertirti almeno. Non è che vai a lavorare, fai il lavoro che devi fare, poi ti siedi, pranzi e poi vai a finire il lavoro, ti farai quello che devi far dare, ti divertite, almeno ti fai compagnia un pochettino. Anche adesso speriamo che migliori il tempo, almeno quando scendi in campagna ti distrai un po', non è che per stare sempre chiuso in casa uno, ma sta scherzando. Io vabbè, Antonio, io ho appoggiato il verticale, se lui è disposto a aiutare, io lo aiuto, però io, vabbè, gli altri dico verticale quando ci vediamo, dai. Vabbè, quando vuoi non c'è problema. Matti Luigi. Ia. C'è uno che ha scorritti, ha mangiato troppo fagioli e non ce la fa più. Io mi sa che me ne vado un pochettino a vedere la televisione, faccio venire un po' di sonnolenza e me ne vado a nanna. Me ne vado a nanna perché domani mattina non sarà alle 4, dai. E vi saluto pure, dai. Ciao Giuseppe, ciao Antonio e anche all'ascoltone con la allo scorreggione. Di bassa, quello che fa scorreggia di bassa, che tocco fa? Appaderoggialo, va bene ragazzi, buon tutto, dai. Buon 144, buon trapacco per domani, dato che conosci tu, sono girato all'altra parte del letto. È positivo, dai. Va bene, buonanotte a tutti, ciao. Ciao, avanti a te. Ciao, ci sentiamo, buon credito, buon tutto. Allora, ti sei qualcosa, non è entrato, Marco? No, non è entrato ancora, il pipistrello da notte non è entrato ancora. E c'è entrata, magari in Cirella oggi stanotte. Tocca fare il pipistrello. Almeno si ripete a donne. Almeno va a vedere le coppiette, Antonio. Qui, le coppiette non fai nulla, non c'è più gusto ma per le coppiette. Via, per carità. a quel poveraccio, a quel mesina, cazzo. Eh? Ma chi però, Antonio? Pensiamo meglio come si ingane la torna. Vai, santo. Vai. Ciao, Alessio. Tu sei che mi cammini nervo. Stai calmo, non lasci andare. Giuseppe, ciao, buonasera anche a te. Tu che sei un amico. È troppo lontano Tomello, e andrei come faccio, è tutta l'altra parte della città. Ho capito, no perché sta ricominciando a riscaldarsi Alessio, non vorrei che si avesse brutte intenzioni, stai calmo Alessio. Stai tranquillo che tu sei, quindi quando ti trovo ti violento tutto, va. Adesso come facciamo? Giuseppe? Bisogna stare attenti, non trovare di così a Torello. Sembra calmo, però sotto, è bello, ciao, un piccolo manca giù. Ho capito, piccolino ma sincero, diceva quello là. Va bene, quindi se capita che ti vedo giro la strada, va bene. Mettiamo così. Dovete stare male a porta adesso di segnare. Non stavo sbirciando. Guarda la porta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene. 9, 10. Radio 5 stereofonica. Di Giuseppe, tu lo sai fare, penso la stessa cosa, in tema di nuovo lo sai fare tu, però tu messo Giuseppe, cosa hai più? Non lo so, adesso Sandro è rientrato a casa sua, non lo so il segnale, ma vediamo un po', io sono liscio, lo so che Antonello sta usando quella cosa là, però guarda com'è il segnale, Sandri. Allora Giuseppe, il tuo segnale, guarda, per essere proprio a millesimo è 9,7, la radio potresti migliorare, però va bene. Quando poi clicca, il discorso è quello, la radio, soprattutto da come è posizionata l'antenna, Sandro, sto uscendo anche troppo bene sto uscendo, come è posizionata l'antenna, se lo metto sul tetto arriverò anche a 9,30 a portare di lei. Vabbè, non esageriamo adesso, da 9,30, aspetta, a lei ha sentito. 9,30, ma almeno dove dice dove sta arrivando il dottore, perché è molto più vicino lui e io. Lui ti prende tutta la costa di Sorso, dottore, se era tutto quanto aperto, capito? In confronto a me. Lui è proprio nel costone, quindi... Però... Penso che quando mette più l'antenna, la 9,7, 12, 9,20, lì a Porto, per avere un buon segnale Giuseppe. Ehi, capo, io vabbè, adesso non so esattamente la zona in cui si trovi Giuseppe, però arriva a venire, diciamo che ho migliorato, diciamo, dai, va bene. Ma in proporzione alla tua altezza, Giuseppe, più in alto o più in basso? No, Giuseppe più basso, senti me. E lui è Valdetta, capito? Quindi più basso di me. Mi prende in pieno. Vede tutta la costa di Sorso, capito? Vede il mare. E sono sorsino di Palotoso, lo vedo in pieno lui. E come se sopra la collina, per dire, e vedere tutta la, tutta quella zona lì. Antonè, che è il nome, quello che abita di fronte a casa, come si chiama? Valerio. Ah, Walter, non Valerio, Walter abita, abitava, se non ci abita più lì, mi sembra già a 100 metri da casa sua, figurati. Io abito dietro Walter e Sandro. Guarda, non so neanche chi sia questo Walter, figurati. No, ho presente via Valdezza, lo dico, ho presente via Valdezza. Però adesso non so se stai via Valdezza bassa oppure salendo verso Stufo. Giuseschi, prendi per il microfono. Ho detto, Sandro, c'è la presente la fine della Valletta, no? Dove c'è la fruttivettura e l'edicola. Io abito quella salita di su, in via Montefurro, lì. Ho capito, alla fine di via Valletta, dove in effetti c'è il capolinea del bus, giusto? Più che sale sempre dritto, trovi un palazzo rosa, io abito in quel palazzo lì, in quel palazzo rosa, il primo palazzo rosa che c'è, hai capito? Io abito lì. Ho capito, in effetti proporzionale Alessio, diciamo Alessio è molto più alto, però vabbè, non vuol dire, però evidentemente non vuol dire, evidentemente c'è cioè, quel filo diretto verso Paolo Torres, diciamo che sia abbastanza aperto, quindi non vuol dire, vedi, delle volte la posizione non vuol dire, basta che non hai ostacoli, basta che sei libero e quindi passi per quella rete. Va bene. No, vabbè, io guarda, a parte dove c'è la camera c'è una casa, un'altra casa, c'ho due case lì, capì? Però dall'altra parte soprattutto quando libero io vedo anche Cosro, come si chiama? Osro, la strada, le cose di Osro, le luci, il paese di Osro, vedo tutto tranquillo, io prendo bene Castelsardo, Senuri, Sorso e compagnia bella, hai capito? C'ho tutta quanta la cosa, ce l'ho lì, la ricezione, buona ce l'ho lì, capito? Va bene. Ma lei, questo tranquillo come sta andando? Bene, di lusso sta andando. Esce benissimo. Vabbè, considera che il suo mic normale, il mic del palmare. Bene, a voi, di segnale di radio sei perfetto, ci mancherebbe che ci si abbassa, c'è anche l'avanzo. Va bene, ok. Comunque, stasera eri a Tintino, Sandri, a consegnare lì? Lo so appunto che era la digestione e lui non c'era, ma c'era il figlio, c'era Armando. Sì. C'era lui, diciamo, il figlio. So che lui l'avvocato è partito stamattina per Roma, lo conoscerai, a Valerio, l'avvocato, l'altro avvocato, collega, là, è partito lui stamattina, ha accompagnato Armando all'aeroporto, è partito per Roma. Non so se deve rientrare o domani o dopo, mi ha detto, non lo so. Sandro, Tigre, ci sei? arrivi Santiago 8, circa Santiago 8 e Radio 5. Come mi ascolti, dai? Cappalai, buonasera Marco. Sì, adesso sono riuscito un attimino, ho attaccato un po' l'amplificatore antenna tirati fuori, però no. Diciamo, dispongo che il tuo rapporto con Santiago di 7, la radio è 2, è proprio bassa come radio. Oh, ma seppure questo apparato è abbastanza spinto come modulazione. Ai ai ai, altitudo. Cantone, già sto uscendo. Diciamo che questo microfono è normale, ecco, non è amplificato. Io sono già in cima, non so se stavo bene, trovo che lui ti sente abbasso, perché io sono pilota Winter. Tu in pratica c'è l'audito, dove sei, proprio se lo vedi, dove c'è il fantome di segnale. Ecco perché te lo sto dicendo, vabbè, l'antenna quella che c'hai non è che sia una cicottabile o che l'attacca a panni con l'antenna. Ma che antenna stai usando, Ale? Una Vingo sto usando, una Vingo della Lemme. Ma anche a me, Sandro, ultimamente mi ascoltava basso. Sandro, mi senti? Ciao, buonasera, Luca, anche a te. Ultimamente mi sentivi basso, confermi. Ma ti sentivo basso, vabbè, un po' di tempo a questa parte, adesso non sto più o meno. Comunque adesso, insomma, stai arrivando benissimo. Santiago 9, va bene. Vabbè, quello che interessa la radio, dai, pure il segnale, non c'è problema. Anche tu sei 9 qua, quasi 9, però lo smettere un po' per i cavoli suoi. Marcolino è praticamente vicino a me, dai, più o meno. Avanti, Marco. Eia, però l'antenna è molto, molto meno... ha molta, molta meno resa. Sì, rispetto alla Mantova, sì. Poi qua sono dei più forti, perciò. Ok, allora, Giuseppe, questo bar ce lo apriamo. Giuseppe è morto. No, no, non sono morto, sono andato un attimo a prendermi le forbicine per tagliarmi le unghie. Se gli sposto, Marco, mi anticipi il 1.000 euro, poi in un mese e mezzo te lo ritorno e poi vediamo. Se no ce lo prendiamo in società, non ce n'è problema. Ehi, Giuseppe, aspetta che dopo me li stampo 1.000 euro e te li porto domani. In un anno e mezzo te li porto. Ah, per me voglio devi dare 5.000. Ma prima ha detto 50.000 euro, ha detto. Dopo mi ha fatto dire 1.000 euro in un anno e mezzo, se no non sbaglio, non ricorda 1.000 euro, io voglio ricorda 50.000 in un anno e mezzo. Perché quelli vogliono il 30%, 40% di 1.000 euro, quindi figurati, fa tutta la vita pagando. Antonio, adesso te ne racconto una. Io avevo fatto una finta schedina vincente con lo scanner. Avevo praticamente campionato tutti i numeri e avevo fatto una schedina vincente. Stampata sembrava vera, ma se devo dire vera, vera. Praticamente l'ho fotocopiata, si chiama documento, e l'ho fatto vedere a un tipo che lavorava in un bar. E lui ci ha creduto veramente che avesse vinto 800.000 euro. E ha avuto il coraggio, era solo un conoscente questo, non un amico, ha avuto il coraggio di chiedermi 200.000 euro in prestito perché si voleva aprire un'edicola. Ma te ne immagini, chi sono io, la banca? Sì, comunque c'è poco da scherzare, lo sai che c'è un sacco di gente che quando vince, per dire, fai che vinca Superalotto, per dire. Non sai gli accattoli che ti capitano, se lo sanno poco i 20 soldi, perché non ti fanno più dormire. Ti telefono, dico che vogliono il prestito, c'è quello che dice, sono dei soldi, ti ammazzo, capito? Allora poi non vivimi, per dire. Così, se sono poco io vado a superare la lotta, sapevo che dovessi evitare un tanto alla camorra, se no mi voglio attirare, mi anticipavo di tirare qui sono in mano. 4 e un buon tabacco per domani, dai, avanti Luca. Ciao Sandro, buonanotte, buona giornata per domani, buon lavoro, alla prossimina, ciao, avanti con tu. Ciao Sa, ci sentiamo con benedetti e con tutte le prossime. Avanti Giuseppe. Avanti Marco, ciao. Ciao Sandro, se mi ascolti, buonanotte e alle prossime. Ok, allora, capito avete, anche a Sassari, se vinci diventano tutti amici, tutti amici, tutti ti cercano. Sì, ma è così, una volta che tu sei finito i soldi, non c'è più niente, non ci viene nessuno a cercare, nessuno ti calcola più, ma è così quello. È capitato a me, io quando stavo lavorando, sai quanti amici c'avevo che venivano a casa, ciao, dov'è, come stai, io andiamo al bar, quella, da quando non ho avuto più niente per dire, non mi ha più calcolato nessuno, gli amici che c'erano prima se ne sono fuggiti, sempre sono fuggiti. E capita così, invece quando c'è il soldo tutti ti calcolano, il discorso è quello. Quando invece i soldi non hai, non ti chiama più nessuno, ti lasciano solo come un cane, quando non ti passano a fianco ma ti salutano, hai capito? Il discorso è quello. Purtroppo è così. Questo è il discorso del fondatore di Porto Rafael, verso la Costa Smeralda. Questo Rafael, mi pare forse spagnolo, ha fondato Porto Rafael, era un tipo ricco e tutti andavano a mangiare a casa sua, ogni giorno una festa, ogni giorno una cosa, no? Quando questo si è mangiato tutto, è diventato povero e malato, perché poi si è ammalato pure. Tutti quelli che sono andati a mangiare a casa sua, le cagli il culo, come proprio parole povere, non hanno più degnato né di un aiuto né niente, capito? Sono scomparsi. Sì, ma è così. E così purtroppo, nessuno ti calcola più. Invece quando sei soli che magari fai una bella vita contenuta, allora vengono tutti a cercare, addirittura sono a 450 volte al giorno perché non esci e io devo fare un giro, capito? Quando invece non c'è più il reddito di prima, capito? Allora non ti chiama più nessuno, non ti calcola, ma detto ma tu ti salutano, il discorso è quello lì. Ecco perché bisogna, cioè le amicizie bisogna coltivarsene poche, ma buone, hai capito? Possibilmente che non abbiano soldi, che è meglio. Almeno sanno cosa vuoi dire, cioè cosa vuole dire uno. Quando invece c'è gente che tipo vuol dire, ah, io facciamo la seminata, facciamo quello, facciamo quell'altro. Allora, purtroppo, dopo che i soldi non è più, non ti chiamano più, ma provo a mangiare, se lo lascio. Così va il mondo, Antone, sono tutti così. E poi le amicizie sono molto relative, te lo dico io perché c'era questa specie di amico, amicizia ventennale, poi si è scoperto che era falso come la banconota da un euro, capito? È capitato anche che il migliore amico fotte la moglie di uno, eccetera. È capitato, bisogna stare molto attenti sulle amicizie che coltivi, molto attenti, siete sull'aldilà adesso, capito? Anzi sull'altro là, non al di là, al di là bisogna mandarseli, e forse è meglio quando sgradano. Ah, io sono per il delitto d'onore. Sì, vabbè, ma fatti vedere quando girano da là così, a volte ne approfittano, capito? Ma è così, poi c'è tutto rigido. Capita sempre così, capita purtroppo. Avanti Giuseppe. Sì, Antonai, per il discorso che avete fatto, vale per me, chi lo sa, no? Cosa ci avevo? E quanta gente veniva giù, e io essendo cazzo sempre amico, quando io ne ho avuto bisogno mi hanno girato la faccia, o no? Sì, ma è così, sono tutti così, purtroppo lo fanno tutti, non è che è successo solo a te, ma è successo anche a me. 50 miglia al giorno e usavo la moto per stare in giro, andavo al bar, bevevo al bar, per dire a volte mi capitava magari in quel momento io c'avevo il portafoglio, per dire cioè, mettimi una paio di birre, domani mattina te le pago, allora voglio dire pagavo tranquillamente, dopo di che hanno cominciato ad avere, per dire, diminuivo i soldi, però oggi mi dico ah, mi diceva no, no, no, non ti vedo, non ti posso mettere niente, mi faceva. Vieni la paghi la birra, hai capito? Diceva così. Vieni la paghi, eccetera, eccetera. Quindi cominciava a dire, dice, ma io, e tu non credo, dicevo, ma io ti ho fatto guadagnare 50, 60, 60, 60 euro al giorno di birra, perché tu invitavo gli amici, non mi ha fatto nulla, quello, ho capito. Quando aveva difficoltà, tu gli avanti si mandava a cagare, invece quando aveva, aveva solo l'acqua, gli faceva credito, non gli facevi fare un bel giro di amici, 10-15 al giorno per dire di invitare a bere lì al bar, ha capito tutto, al gestore, cosa può capitare così, e in tutti i posti capita. Di trappa, sì, vabbè, vabbè, tanto il discorso è questo. E tutti i nodi vengono al pettine, poi piano piano, stai tranquillo che uno a uno e cominciamo già a eliminare tutto quanto, e già lo sai tu Antonio, che quanta gente ho eliminato io, dunque, punto e basta. Io mi preferisco essere, dice ma tu sei sempre da solo, sì ma preferisco essere da solo, però non ho con i con i pezzi di merda, con i pezzi di merda, cazzo, di scopo è tutto quanto, punta e basta. Avanti, vai così. Beh, per il futuro, meglio saperlo, no? Non si dà più niente a nessuno, non si fanno favori, eccetera, eccetera. E siamo più contenti anche. Sì, perché io, Marco, il discorso è questo, che quando io lavoravo alla stazione, ne venivano tutti. E io dico, per qua, bravo qua, un bravo ragazzo, e qua, io ho fatto che sul carattere, come c'hai tu, bravaccio, e come quello di Antonello, e mi piravo. Alla fine, ma non ne ho avuto bisogno io, tutto mi hanno girato la faccia, e allora adesso, il resto da oggi in poi, è diventato figlio di puttana, non guarda in faccia più nessuno, Marco, non è perché, è l'ispirazione delle persone che gli hanno sempre fatto del bene. Lo so Giuseppe, lo so cosa avevi alla stazione, l'avevo anche visto, so che non sapevo che avessi il baracchino all'epoca, capito? Vabbè, purtroppo quando vanno male le cose è difficile rimediare. Vabbè, che te devo dire? Antone. Sì, ha bisogno di fare come faceva Giuseppe ogni sera, si faceva un saltino lì a stasera il vecchio, bagnava la spugna, intanto, hai capito? E faceva bene. Non potevo cadere lì, ogni volta, tanto quando andavo, mi facevo quelle una o due, ed è vero, ero tranquillo, e non stavo niente a nessuno. Poi tu dicevi, mi parla mia mamma, ha detto di fare di lavare i vetri, e quella lavava i vetri, faceva la bella lavanderina. Avanti Marco. Ascolta, quando avevo fatto quella schedina, praticamente c'avevo un amico che è bancarellaio, no? E gli ho detto che era finta. Allora abbiamo fatto uno scherzo al bancarellaio che c'era vicino a lui, no? Facendomi passare per un ragazzo che aveva vinto, che era uscito in testa, che ha fatto vedere la schedina. Questo c'aveva due occhi che l'avrebbe strappata di mano, no? Beh, il signore gli ha detto quando me ne sono andato, dice, ma questo ragazzo lo conosci? Ma io lo sequestriamo. Ah, senta, subito. A volte succede. Mi sai cosa gli ho fatto invece, cosa... è successo che tra un mesino avevano fregato la Porsche. tornato in paese, non aveva fatto neanche la denuncia ai carabinieri, figurati, dice, subito, ma gli hanno rubato la Porsche, no, l'ho prestata, intanto aveva messo davanti alla porta in foglio, sono ritrovato la macchina, mi sparo, le due ragazzi hanno trovato la macchina, anche come scusa, non sono l'altra, così bisogna fare, uscire con un fucile e sparare qualcuno. Grazie a Megina, mi. Buono quello, mi. Ha avuto la grazia, come vedi, la gente non cambia. Quello che mi stupisce di Megina è che, nonostante fosse di quei banditi della vecchia guardia, no, che magari sono contrari alle droghe, no, alla droga, quella roba lì, invece si sia messo a fare il traffico di droga, quindi hanno perso quella pseudo, come si dice, non so definirtela, la mentalità dei banditi una volta, capito, odiano la droga, quelle cose lì, invece si è adeguato ai tempi, diciamo. Beh, logico, guarda che soddisfacente ce l'ha tutti lì, fra poco lo faremo anche noi, se continuiamo così vedrai che ci metteremo a coltivare quella roba in qualche campagna e ci mettiamo a vendere come fanno i talebani. Come per esempio la mafia di una volta era una mafia più diversa, sì, mattavano gente, però facevano più che altro racket, quelle cose lì, la protezione la chiamano loro, invece poi anche loro traffici di droga, cioè non hanno più scrupoli, hanno perso quella specie di moralità, tra virgolette, di una volta, moralità a modo loro sempre. Così fanno per fare soldi facili, ormai c'è la droga e quindi il consumo è tanto e quindi i soldi sono facili, ma il discorso è quello lì, chiunque andrebbe a vendere droga, a me se uno gira 30 euro per dose ci ha detto subito, dato che fai il muratore. Sì, ma allora anch'io sarei andato, visto che non lavoro, almeno per il momento. Ma quello è un discorso dei soldi facili che non mi ha mai interessato. Piuttosto niente, però a fare roba illegale non vado. È proprio una cosa innata. Guarda Giuseppe, va a vendere il whisky, come facciamo gli americani una volta. Si fabbrica il whisky in casa, poi lo vende. La distilleria clandestina, un tempo si poteva fare, adesso neanche quello lo puoi fare, perché arrivato a un certo punto ormai questi colizi di cui se ne accorgono troppo facilmente. Allora ci facciamo la piantagione di cannabis. E poi una canna nobile, una canna in città ed è una bussola. Quelle adesso addirittura le sgamano con quei piccoli velivoli radiocomandati, mi pare che chiama la R-drone, no? Sono tipo elicotteri, no? Che hanno la telecamera e loro dall'alto, senza entrare nelle proprietà, vedono quello che c'è e si accorgono delle piantagioni, capito? Che non so, già lo so. Io mi metto a ridere se adesso la droga a posto di darla così la fanno liquida, che la mettono in mezzo alle sigarette elettriche, che cazzo di avere gente fumando cannoni, che te lo immagini? Sì, già da un po' la fanno liquida. Mi pare che si chiamasse P2P, quella liquida, tutta roba che trovi in America, no? Liquida, quindi la potevi mettere anche nelle sigarette, capito? E il principio attivo, anche se si asciugava, poi rimaneva nel tabacco e quindi ti fumavi roba potentissima, capito? Forse anche il crack è liquido, ma non sono sicuro, no, non me ne intendo io. Tu vedrai che venderanno, capito? Con quelle sigarette elettriche venderanno di quei cosi, di coca per i piccolini, neanche te ne accorgi. Una bella siringata dentro e ti stai fumando la cannabis. Praticamente il fumo liquido, così è. E il fumo, no, come lo chiami, il liquido te lo danno anziché a tuo pettini. Qui lo visto, vai, il sapore di cacao, il sapore di quello, fa poco lo fanno, il sapore di cannabis, se mi appusso. Più uno che trovi ragazzo fumendi che c'è la sigaretta elettrica, e lo trovi tutto quanto più alto. Marco, allora, facciamo una cosa, un'altra cosa. Allora, ci pigliamo il corpo che usano le donne, per depilarsi, ci ripiliamo tutto quanto, ci facciamo il trapianto e andiamo e ci mettiamo la meligonda e tacchi a spinto. Andiamo in quelle poluttore di abbattere. Facciamo così però, io mando voi due a fare quello, io incasso, capito? Faccio il magnaccia. No, no, io mi compro una di quelle bambole di plastica, ci metto il trasformatore di riga del televisore, quando uno ci mette il pisello dentro, sta tranquillo che se ne viene subito. Ha preso in odio, non so perché. non le ho fatto niente, perché un paio di giorni fa, cosa è successo? Che ci è andata una persona, senza far nome, e ha cominciato a sfottere questo cane. E allora, a prenderlo per la coda, qua, boom, va, a fare tutto quello che, non, che non, al cane non deve fare, no? Dal giorno che sono salito, a casa di Antonello, cioè a questo cane qua, mi ha pigliato in audio, non ho capito perché. Non lo so, loro vanno a pelle, oppure dall'odore delle persone, ma lo fa con tutti questo cane o con pochi? Antonio, dillo tu, non lo so, io non lo so se lo fa con tutti oppure o con altre persone, non lo so. Glielo fa con tutti, ma quello tabacchino, siccome gli toccava la coda, non lo può vedere quello tabacchino, glielo fa apposta, figurati, e quindi no, se vede un cane per dire giù, gli fate in quattro, parte subito, tanto la sua, quel capito, e quindi c'è la maniera di fargli, certo faccio vedere qualche giorno, o Marco, come si comporta, scusi. Una cosa c'è di buono, vedi, che è affettuoso, quello sì, però a volte devi stare molto attento, devi essere affettuoso anche tu, però sull'altro lame. Ma col padrone però, lui deve vedere il padrone come il capo branco, non si dovrebbe mai girare col padrone. Vabbè, da, ma ogni cane ha il suo carattere, mi. Certi sono più terriosi, certi sono più calmi. Vabbè, quello sì, è vero, ma diciamo già è un buon cane, no? È che diciamo, ci abbiamo antifutto noi a casa, capito? Quindi se sente qualche cosa di strano, fatta in quarta, a me mi riconosce da un chilometro, figurati. Se io scendo giù con le scarpe di quelli di plastica, cioè, mi riconosce subito, sta sempre attaccato alla porta. Arrivo a conoscere la macchina di mia sorella, quando parcheggia, io vado la sento, figurati. Orecchio fino, è già l'orecchio fino il cane. Sì, sì, ti riconosce subito. Solo che volte io sono andato a mettere le lettere sotto la porta di fatto per dire, per non stare a suonare la porta, perché c'è scupe. Ma intanto c'è lui dietro, come metto la lettera, comincia a bagliare, colpo di elettrica. La giubuttito. Kappa. Bene, bene. E stasera nessun altro è entrato, no? Tu perlomeno non sento nessun altro io, a parte Sandro, Giuseppe, tu. Luigi c'era, Luigi Vulcano. Ma vedete, però non sento nessun altro. Capito? Vabbè, ragazzi, io vi saluto, dai, mi stanno chiudendo già le pupille, ci sentiamo alle prossime, dai, Tony, se domani non devi lavorare, se ti fa una scappata non c'è problema, ok? E vabbè, se arrivo già al lavoro già faccio una scappata la domani mattina, arrivitemi. Se Marco si sveglia presto, vai a Zina. Se non lavora, dimmi, ci vediamo assieme di dove sei tu. Così Marco, al limite, andiamo là qui, come ti pigli questa antenna, il cavo, il partitore, quello che ti serve, poi un altro giorno facciamo quel momento là. Ah, ho capito, Solo che si aspettate che mi svegli presto io. Siete freschi. Non ci riescono, cioè anche se metto la sveglia, alla fine mi alzo 2 ore dopo. Sì, vabbè, non ti svegliare 8, non è che sono ancora a centrare, Giuseppe va alle 10:30, anche alle 11 possiamo andare, per dire. Tanto Bico è aperto tutto il giorno, quindi non è un problema. Possiamo andare anche a pigliarti qualcosa alle 1:30, alle 2. quello che ti serve, compresi i chiodini, poi un altro giorno lo facciamo. L'importante è che ci ha detto quanto poi già a casa, capito? Se lo scegli con calma. A proposito, ho capito una cosa sbagliata, lei non vuole l'antenna su, vuole l'amplificatore in quella di giù, in questa zetteratina, boh. Ogni volta cambia, Antonio, sono stufo anche di sentire, capito, ogni volta vuol fare questo, poi cambia, poi questo ancora. Io comunque l'antenna giù non ho visto la zetteratina, vabbè, non ci ho fatto caso, la verità. Se c'è l'antenna giù, un terrazzino, non c'è bisogno mica di mettere l'amplificatore, no? Boh, avete vuol dire che qualche problema con il miscelatore lì, ci sarà un miscelatore, c'è la prima o secondo, c'è la miscelatore, comunque conviene direttamente sopra, la verità la spesa non è eccessiva, già lo sai, l'antenna viene 14 euro, quella lì. Fai altri 10 euro in capo, che sono 24, il partito mi pare costi 5-6 euro, mi se ne esce intorno ai 35-40 euro non di più, me. Non è questa gran cosa, che sono lì dove c'è Paolo Terrebacchino. Poi si fa le partizioni, ogni camera ha il capo suo, cioè il capo che arriva all'interno. Perché la partizione bisogna la fare giù per forza, non su. Sì, lo so. Infatti se non c'è niente di certo comunque non facciamo niente, deve essere sicura. Ah, piuttosto, buonanotte Giuseppe. Buonanotte e buon risveglio per domani. Ci sentiamo le prossime. Capito Antone? Vediamo cosa vuole. Ah, sai perché volevamo mettere l'amplificatore giù? Perché prende tutti i canali, però Rai 1, Rai 2, Rai 3, niente. Se non prende Rai 1, Rai 2, Rai 3, il problema è l'antenna del primo canale che non sta funzionando. Noi non so che antenna c'hai tu, se c'hai quella del primo, quella del secondo, il miscelatore, se c'hai solo l'antenna della seconda agganciata, il discorso è quello. Allora, qui nel terrazzino c'è una log periodica come quella che tu vuoi mettere su. Quindi copre VU. Però chissà perché la RAI 1, 2, 3 non arriva, l'unica che non arriva. Come se avessi i ripetitori meno potenti, non lo so. Ascolta, come l'hai messa? L'orizzontale o verticale? Verticale. Non deve pigliare per forza. Non vedo perché non deve pigliare con l'antenna, a meno che non sia quella colore che ci volevo io vecchio. Cos'è che qua c'è un cappuccio davanti? Non te lo so dire la verità. Non me lo ricordo. C'è da un po', c'è dal forse dal 2000, forse anche di più. Vediamo comunque là. Stranamente non arrivano quelli. Quando c'era l'amplificatore arrivava, quando abbiamo invece tolto l'amplificatore in amarcio non arriva più. Per me bisogna davvero quell'antenna, Marco, se per questione di amplificatore c'è l'amplificatorino in agganciare 30 dB, non costa neanche molto, pare costa 10-12 euro, non mi ricordo adesso una cosa del genere, per quell'antenna lì. Te lo sto dicendo, non costa molto, glielo puoi anche applicare, non ci sono problemi per quello. Te l'ho fatto anche vedere, quella è la scatolina per la presentazione, però devo vedere io i contatti dove c'è agganciato il capo in quell'antenna lì. Capito, se ce l'ha davanti o se ce l'ha dietro, se ce l'ha dietro a spinottino a vitale, allora è modello nuovo, perché se ce l'ha invece davanti, con cappuccio nero in plastica, allora è modello vecchio, evidentemente non si adatta. I contatti. I contatti? No, non so che contatto stai dicendo. A me sembra che il cavo entri dentro all'antenna, è fisso. non c'è una Spinotti per collegare il capo. Così ricordo io. Era la modello vecchio, non quella che ho io di qua a casa. Si può cambiare e mettere il nuovo. E l'amplificatore so se serve, comunque siccome qua sto sempre cambiando, come dire, idea, io non faccio nulla finché non si decide del tutto, sappiamo dove mettere l'antenna e quale stanza servire anche. Vabbè, fai così, controlla, va bene, se come sei scelto tu, fai per cambiare l'antenna, non costa niente, sono 14 euro e via. Decidiamo quando si decide, facciamo tutto. Io non c'ho per quelle ossa, se diventa l'antenna basta cambiarla e fare la prova sempre. Io qui visto adesso contento, prendo bene, vai uno attaccato l'antenna proprio nelle tegole. Caspita, forse tu ce l'hai più aperto, no, ma anche qua è aperto. Vabbè, dai, si vedrà. Per adesso aspetto ordini. Vabbè, non c'è problema per quella, non ti preoccupare. Che ore sono? Le 11 circa, beh, fra un po' qua si mangia, forse. Cosa mangi? Beh, vabbè che ve lo dico. Noi prendiamo tardi, molto tardi, e ceniamo quindi altrettanto tardi. Ma io c'ho la professore 9:30, 10, una cosa del genere. No, credevo prima, c'è gente che mangia alle 8 di sera, 8:30, oppure certi mariti che devono mangiare tipo alle 9, se non mangiano alle 9 muoiono, non lo so. Di capigliatoio, ma che cazzo, mangiare alle 9, io fammi la buia. Se io mangio alle 9 o alle 8:30, poi alle 11 devo cenare di nuovo, capito? Comunque così Antonio, certi mariti sono abitudinari, se non mangiano alle 8:30 muoiono, non ne possono più la vita, non si spiega questa cosa. No, io mangio anche alle 11:30, lo sai, se sono in giro per dire che sto bevendo al bar, cosa c'è, rientro verso le 10:30, 11, ceno anche alle 11:30 per dire. Poi ci vogliono 2 ore e mezza per poter digerire, capito? Anche perché c'è la pancia, c'è lo stomaco gonfio di già di gas, della birra, quindi devi ricordare il giro, tranquillo, sono per tutta la notte camminando, stai. E poi io non ho problemi di digestione, anche se mangio tardi. Ti curi che digerisci, cioè, i supplicati c'è ancora osservano. Ci dico, ma io massa mangio tardi, io non digerisco, e cosa sono, delle femminucce? Ma che c'è, se bevi la bagata, per fare quello non digerisci, così vuoi pensare tutto, però metti la Coca-Cola prima, e poi vai a cenare, un tubo ce la fai a digerire. Sei uscito? Non ho sentito il dindon. Sì, il don, sì. Non ho parlato. Ti volevo far sentire il dindo. L'ho sentito. Sì, questo ogni ora ci farà delle palle. E ogni mezz'ora fa il tocco singolo, capito? Cazzo, è di notte. Vabbè, quasi non fate. No, chi lo sente? Io c'ero nella mia stanza, non lo sento. Perché so chiudo la porta e poi mi, se uno lo sente vuol dire che è sveglio, se dorme non lo sente. Io se metto una cosa in casa non sale quello che ho di sopra a me. Oh, no, questo diciamo non è forte perché è piccolino, non so se te lo ricordi, è piccolino, non è di quelli grandi che fa quel suono profondo. E poi mi, il discorso è quello, mi dice, se questo stronzo di sotto lo sente, vuol dire che è sveglio, non può dire che l'ho svegliato, capito? Vabbè, quello sì, ma siccome qui ci sono muri di foratino, muri cantoni, quindi la cosa arriva, sta capito, seguiamo, va tutto. E poi me, ci vorrebbe il coraggio suo. Beh, questo di giù, no? E di quelli che ci invita gente a casa, poi stanno nel giardinetto giù, nel cortile, cioè nel suo giardino, a cantare, a ballare, a suonare fino alle 2 di notte. Quindi non deve dire nulla, tanto, se no lo mette in croce. Ma qui invece è diversa la cosa, capito? Qua sono paure male anche alle 7, alle 8 del mattino, per dire, alle 9 di sera, alle 10, a mezzanotte, tu mi senti della notte di Natale, penso che c'è il casino fuori, questo l'ha già detto, era. Allora un giorno gli metti le casse dello stereo, le poggi sul pavimento, le pianti il diffusore sul pavimento e poi metti a tutto volume, a vedere cosa succede. Sì, c'è bisogno di cameretta così, nell'angolino proprio, perché fa la casa acustica, e lo so, devo mettere il pavimento, proprio nell'angolino e c'è il muro che è fatto, capito, dalla pezzo più basso, verso 2 metri, quindi la voglia casa acustica. E questo cosa fa? Sale a lamentarsi e tu scatenagli contro il cane. Ah, qui c'è quello del piatto, di cose del piatto, sto facendo io, ti metto un po' di tuppi sopra il tetto, un paio di 2 o 3 tuppi, quelli che gli faccio entrare dentro a casa sua, vedi come si fugge. Sai che qua c'era un periodo che praticamente avevamo, oltre il muretto che delimita i palazzi, c'era una specie di garage, no? Aveva la tettoia in onduline rotta e praticamente uscivano tutti da lì e andavano al giardino e quello di sotto. Una notte, sempre a vedere il buio come facevamo, avevamo una telecamera a infrarossi. Praticamente col buio tu vedevi gli occhi brillare con gli infrarossi. Oppure no, anche illuminati con l'illuminatore infrarosso. Vedevamo la carabina, aria compressa, e sparavamo al topo. Praticamente ne abbiamo ammazzati 3 o 4. Sì, io in campagna neanche con lo sciapoco li ho ammazzati, figurati. I topi saltavano, io con lo sciapoco sopra, diavolo fuoco, ma intanto camminavamo lo stesso. Che bello vederli scappare in fiamme. E già che vuoi scappare in fiamme, non ti preoccupare. E poi non mi fai proprio niente, mi sono già mi vuole lo stesso. No, con la carabina è divertente, sembrava di essere di andare a caccia. Capito? Come li beccavi facevano un salto e poi rimanevano, facevano un po' di segui movimenti convulsi, scomposti, no? E poi rimanevano secchi in terra. Sì, quelli sì. Comunque un po' di topi ci vogliono ogni tanto, e ti fanno compagnia di notte, di quelli belli robusti, quelli grossi, mi sembrano gatti. E poi questo di sotto c'è il cane, anzi i cani. Quindi quando abbaiava il cane vuol dire che c'erano quelli. Allora piano piano aprivo la finestra, la porta finestra, andavo alla carabina, però sai come facevamo? Praticamente quando accendevamo la pila puntata sul topo e sparavo, poi spegnevo la pila, cercavo con la telecamera infrarossi un altro topo sul muretto, accendevamo la pila e sparavo. E fa voglia di divertimento la notte allora? Sembrava di essere la giostra, no? Con fucile aria compressa. Peccato non poter sparare anche da quello di sotto, come i lupi. Come di maniaco, sì, perché ne combina un bel questo di sotto. Crede, sai che tipo è? Tipo Santa Maria di Pisa, di Ghiti. E io ripeto che taccio, è un gioco, è un rivolto. Si fa defuzzare. È un randaggio, proprio tipo la Santa Maria di Pisa. Purtroppo si è preso la casa qui, tempo fa, e quindi è, diciamo, il buco del culo del palazzo. Ho capito, quindi devo dire, posso lavarmi le mani, sto arrivando subito. Sì? Lavatele bene, mi. E mi sono spammato la crema, se no piglio fuoco, aspetta. Comunque gli appompano a me, io me lo ricordo che c'era uno che mi urlava da da Genova a Sassari, a Fondoscala. Io dico seguito di Emanuele, lo sentivo molto forte, e ci parlavo pure con l'antenino della macchina. Lui diceva 25 elementi, pare che 20-25 elementi, e parlavamo sui 4,33, 35 anni, uno di PD, ma una cosa allucinante come arrivava a Sassari, e mi ascoltava pure, c'era una ricezione di Ragena, guarda, figurati, cosa vuol dire metterci 50 watt in un PMR? Ma quella era una direttiva, troppo comodo per quella direttiva, mio caro. Ma sentiva tutti, sentiva, se lo devo dire, punta a punta in Sardegna è una cosa allucinante. Poi ho visto gente che si sono fatti la direttiva col boom lungo 10 metri e praticamente c'era un'infinità di elementi, capito? Figurati la resa anche a quell'antenna. Beh, se la fai bene, la voglia che parli, fa un sacco di distanza per me, non trovo male così. E anche gli LPD. La frequenza è quella, la frequenza è quella. Sì, si usa i 5 watt, poi se è un veicolare, non ne parliamo, con 45 watt più direttiva, ti fai un bel di distanza. Penso che arrivi appunto in tutto il continente, sempre che non abbia monti davanti che ti coprono. Beh, se c'hai un muro sei fregato, se sei a linea ottica va benissimo. Penso che i radioamatori sui 1200 MHz, basta avere l'orizzonte ottico, la direttiva è con pochi milliwatt arrivi a centinaia di chilometri. E se c'è un buon punto, sì, se sei molto in alto. La voglia. Scusate, vedi a Catacello di Piazza Castello, lì già abbiamo già ben bene a pensare a un coso, un ponte. Poi hanno rifatto, parlando di veicolari, hanno fatto la versione aggiornata del Vauxhall, come si chiama il veicolare, KG, il 920R, hanno fatto la versione 920P, che risolve molti problemi, tra cui il selettore, che è praticamente da fare i cavoli suoi, hanno migliorato la sensibilità, la selettività e tante altre cose, e adesso è molto migliore. Insomma, l'ho modificato in giusto. Bene. Perché prima aveva dei problemi un po' seccanti. L'hanno ulteriormente migliorato e il prezzo è rimasto uguale se non inferiore. Perché quando esce costa di più, poi passa un po' di tempo a abbassare il prezzo. No, non c'è abbassare il prezzo, dopo un po' di tempo abbassano, se lo sai, le cose. Come l'elettronica, mi sta facendo la stessa fine degli appartamenti quando vai a venderli, che non riesci a vendere niente. Se vado alla bacchetta, so poco prezzo, ma ti trovi con il televisore a 1200, se trovi a 600-700 euro. Certo che i cinesi ne sanno le strisce. Adesso loro piano piano hanno iniziato con i portatili, bibanda, monobanda, bibanda, poi c'è quell'HF famoso, poi ci sono vari HF in kit, oppure già costruiti quelli piccoli piccoli, piano piano si allargheranno, faranno i veicolari li fanno già, bibanda, faranno tre bande, quattro bande, vedrai che faranno dei bei prodotti in futuro. Io penso che fra 5 anni, 5-6 anni massimo si aprano un negozio con forza di elettronica, dove qui vendono televisori, radio, cose del genere, e un sacco di negozi qui hanno finito di vivere, dove dico io, vanno anche lavatrici, non preoccupare, penso che non ci vuole molto, 5 ma massimo 10 anni, tu vedrai che ci sarà un bel megastore cinese di vendita di elettrodomestici che ne fa il culo a parecchi prodotti, parecchia gente, te lo dico io. A me farebbe comodo avere un negozio del genere, roba cinese, purché diano assistenza, Allora c'è gente che per esempio aveva, che ne so, il Vauxhall, il portatile, no? Oppure il boxing, roba del genere, un V5R, no? Gli si rovinava la tastiera, chiamava la ditta, la casa madre, praticamente gli hanno inviato gratuitamente roba di due o tre tastiere di ricambio, gratuitamente, capito? I cinesi, tutti i ricambi, hanno tutti i ricambi, tastiere, cose, te li mandano subito. Invece uno per una Linco, per chiedere la mascherina della Linco, ha dovuto aspettare mesi, mesi e mesi, e l'ha avuto anche per miracolo, perché non capivano che ricambio avesse richiesto lui, non avevano ricambio, uno schifo, l'assistenza Linco, uno schifo. Sì, ma è così, mancina, sai che costa poco la roba. Adesso c'è, già l'hai visto, gli americani fanno fare tutta la roba ai cinesi, capito, televisori, radio, tutto che fanno fare ai cinesi, perché lì costa di meno la manodopera, quindi il prodotto finito in America possono ricostare per dire $100, e costerà neanche 30, e poi loro vendono a 100, capito, sono le multinazionali americane che ci guadagnano parecchio. Lo so, poi anche roba giapponese magari fatta in Cina, magari con tecnologie giapponesi, però manodopera cinese costa poco. Il problema è che loro poi vendono a 100, capito? Lo pagano 30, vendono a 100, i cinesi lo fanno pagare poco, poco. Adesso te ne dico una, hai presente un V5R? Forse no. No. Allora, il Vauxhall, no, balle, il Baofeng V5R è un bibanda, è completo, c'ha subtoni digitali, analogici, eccetera, eccetera, è completo, ti costa €34 spedito, quando una volta il TH75 costava 750.000 lire e aveva i subtoni opzionali, tutto opzionale era, cazzo, parco batterie. Se compravi con opzionale ti costava una follia. Praticamente le batterie di quell'apparato ti costano roba di spedite 6, 7, 8 euro massimo. Sì, beh, non costano neanche molto, lo sai, le batterie cinesi costano una cazzata, quanto batterie un euro, quelle normali, figurati quelle ricaricabili quanto vengono. Ecco, questo apparato, il Baofeng, UV5R, è stato rimarchiato Kenwood, per il mercato russo è stato rimarchiato Kenwood, cioè è lo stesso apparato comprato dalla Cina e c'era scritto Kenwood, capito? Uguale. E poi ho visto un apparato cinese, lo stesso economico, rimarchiato dalla ICOM, capito? Però loro lo vendono a prezzi maggiori perché ICOM, ci hanno messo la targhetta ICOM, invece tu lo compri dalla Cina ed è lo stesso identico apparato fatto da loro, lo paghi meno della metà, anche un quarto lo paghi. Lo so, è il mercato purtroppo, caro mio, mercato pronto finito in Cina costa poco, poi vale marchiato con la multinazionale, posso ricostare per dire 20, ne costa 60-80, quindi quando arrivare, è come l'iPhone 5, se la fanno in Cina lo puoi trovare per dire 100 euro, qua lo trovi, se lo vuoi trovare lo trovi 600, quindi la voglia guadagno, andate di giro, lievitano i prezzi, già lo sai più di me. Altro che, adesso già stanno perdendo, no? I giapponesi come sui veicolari, sui portatili, gli daranno una sussa al Giappone, i cinesi che non hai idea. Vari veicolari ci sono validi, tipo il Vauxhall nel 920 che ti ho detto, poi ci sono degli Eniton, il 500, come cazzo si chiama? 588 UV. Bello, c'ha tutto, addirittura c'ha, oltre che i suoni digitali analogici, c'ha le selettive, tutto c'ha quell'apparato. Non so cosa non abbia, guarda. Mi manca solo che faccia il caffè. Eia. E non costano nemmeno molto, in proporzione, per quello che ti dà, ti dà molto. E a voi, così è bello di trovare apparecchi in genere a poco prezzo. Li compri, ma li fa arrivare poi li compri. Fai certi gusto. Comincio a fare il salvadanaio, Ti conviene quella cosa, il salvadanaio, almeno ti compri qualcosa di lusso. A pago briscio. Uiuia. Vabbè, Marco, io me ne passo in correttivo. Ci siamo in mattina, se ti svegli alle 10, se lo sto lavorando, già sono a palattina. Su 14 sono. E così scende. Ci vediamo di mettere da cosa? Da Giuseppe. Cappa, vediamo un po' cosa posso fare. Al solito posto, no? Dove siamo andati quella notte. Vabbè, Antone, buonanotte, ci sentiamo. E basta, anche io chiudo, là. Comincio a scaldare la roba qua e mangio. Buonanotte. Ehi, ciao, ma buonanotte, ci sentiamo domani.